Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore a tenervi compagnia questa sera per il momento solitario, nel senso che Maurizio deve ancora arrivare, c'ha qualche problemino, ma insomma spero risolva il tutto al più presto. E dicevo, questa è la vostra emittente preferita questa sera, serata particolarissima perché abbiamo un caro amico, soprattutto del sottoscritto, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima i nostri dati tecnici, ovviamente. Questa, dicevo, Blu Radio Veneto la trovate anche su Facebook, semplicemente digitando Blu Radio Veneto, oppure l'altra pagina con Blu Radio Veneto Rock Wave, che è quella dedicata soprattutto alla musica rock. Vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms, se volete mandarli anche questa sera ovviamente per il nostro artista, vi ricordo è il 346 23 20 033. Abbiamo un sito bluradioveneto.it, ovviamente www, mettendola prima, insomma, e poi all'interno di questo sito, nella home page, c'è la possibilità di ascoltarci in streaming audio cliccando sulla freccia nera sotto la scritta nel rettangolo rosa streaming, c'è una freccia nera, appunto, dicevo, e cliccando lì sentite la radio 24 ore su 24 in diretta. Detto tutto, penso proprio di sì. Oggi è il primo giorno di settembre, oggi è giovedì 1 settembre, sono le 21.02 e abbiamo in studio Paolo Barilari. Ciao Paolo. Ciao a tutti, buonasera agli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Lui è un grande, io ti ho scoperto per caso in quella serata magica che sei venuto qui a Padova con me, ma ne parleremo magari più tardi. Ma insomma, Paolo, intanto grazie di aver accettato l'invito. Intanto grazie a voi di avermi invitato in questo posto bello, allegro, leggero, familiare, una bellissima atmosfera. Mi capita di girare per le radio abbastanza facendo il lavoro che faccio, è difficile sentirsi a casa, quindi già abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata, ci siamo messi a nostro agio. Certo. La serata promette bene. Ma sei anche tu che dai allegria, sai? Sei un personaggio molto, molto allegro, molto solare, quindi dai molta, molta gioia. Allora, io faccio sempre una domanda, la faccio a tutti, la faccio anche a te, quasi diritto. Dimmi. Chi è Paolo Barilari? È una domanda difficile anche per me, no? Io credo che il percorso della vita di una persona sia fatto apposta per scoprirlo, no? In genere c'è stato un grande filosofo che ha detto che la vita è tutto quell'insieme di cose che ti capitano mentre stai facendo i programmi per la tua vita, quindi io te la giro e ti dico io sono tutte quelle cose che faccio per cercare di scoprire chi sono in realtà, cioè un cantautore, un autore, un performer teatrale, un uomo che fa musical, che fa recital, tutto questo lo faccio probabilmente anche in parte alla ricerca di me stesso, quello che scrivo, quello che canto. Quindi ti dico, molto di quello che io sono si evince dalle canzoni stesse. Diciamo, io ho un libretto di lavoro dove c'è scritto operatore nell'ambito dello spettacolo, che è una definizione terribile, però diciamo che quantomeno riassume tutto quello che faccio. Canto, recito, ballo molto male, mi serve per i musical, e scrivo, cerco di esprimere quello che sono attraverso le canzoni, credo che sia il modo più semplice per raccontarlo, ecco. Cioè, le tue canzoni sono praticamente la tua storia, la tua vita, sono intimistiche. Non necessariamente, a me piace raccontare la vita delle persone, raccontare i momenti della vita delle persone, quindi una visione distaccata di quello che poi in realtà sono io, quando osservo i comportamenti degli altri un pochettino come se mi guardassi dal di fuori, e poi delle volte mi piace scherzare, cosa cerco di essere abbastanza ironico nelle mie canzoni, di metterci sempre un tono di scherno, di ironia, di satira, senza la satira non si vive, no? Certo. E quindi sì, questa duplice cosa, un intimismo però giocato attraverso lo schermo degli altri, descrivo una persona ma in realtà sto principalmente parlando di me stesso, ecco. Insomma, certo, questo è giusto, è anche naturale. Senti, ti ci vedi più come cantante, come attore, come autore, come ti ci vedi di più? Qual è la tua proprio anima, secondo il tuo punto di vista? Dove cioè, sono tutte in ugual misura oppure c'hai un qualcosa che... Ma io cerco almeno, quando me lo lasciano fare, di fare quello che voglio fare. Sì, certo. Quindi Guarda, Steven Spielberg ha detto: io sono diventato un regista perché nessuno mi faceva i film che volevo vedere. Ah, ecco. È vero, eh? Questa non la sapevo. Quindi io ti rispondo, io faccio quello che voglio vedere. Nel momento in cui voglio essere di più un cantautore, magari mi chiudo un pochettino di più in me stesso, sto magari un anno fermo, non faccio spettacoli, non faccio cose di teatro, mi chiudo un attimo me stesso, scrivo, butto fuori quello che ho dentro. Poi magari ci sono delle volte in cui ho più voglia di stare in mezzo alla gente, allora magari mi metto in fila come gli altri, faccio le mie audizioni e cerco di entrare in qualche spettacolo, in qualche lavoro. Come sto facendo anche adesso, tra l'altro, perché... Cosa stai facendo, Slipper? Non si può... No, qualcosa diremo sicuramente. Certo. Intanto sto portando in giro un tributo a Giorgio Gaber che ho ripreso dopo parecchio che non lo facevo. Ho smesso nel 2007-2008 perché ero inciampato in un altro grande progetto di musical di cui avremo modo di parlare. È un bel inciampo quello. È un bellissimo inciampo e adesso con piacere riprendo la strada maestra, quella tracciata da Giorgio Gaber, che è uno dei miei grandi maestri, comunque poi a tutti i livelli, sia teatrale, sia vocale, sia soprattutto cantautorale. Quindi hai avuto modo di vederlo anche di assistere? Sì, di vederlo, di conoscerlo. È una delle persone grazie alle quali faccio questo mestiere, lo dico a tutti. Le sue canzoni mi hanno fatto capire che si può portare la canzone a teatro e il teatro nelle canzoni. Certo. Si può recitare mentre si canta e si può portare sul palco del teatro la canzone. Ed è un modo di unire queste due dimensioni. Tu mi hai detto prima: sei più cantante o sei più attore? Io sono più gaberiano. Quindi unire le due cose. Gli americani usano questa parolaccia che è performer. Performer vuol dire qualcuno che performa qualcosa, no? che produce qualche cosa. Spero davvero che quando si è su un palco a dare un'emozione si produca qualche cosa di utile per la gente che sta seduta lì sotto a guardare o ascoltare, no? Certo. Gaber, comunque, ne parlavo anche ieri nella mia pagina di Facebook, ristrettamente ovviamente, insomma, dicevo che è stato un grandissimo artista, non tanto valorizzato negli anni in cui era, diciamo, in vita, sì. Ma invece adesso è stato molto rivalutato. Ma a cosa è dovuto questo? Perché ci sono veramente, a volte metti delle canzoni, senti delle canzoni, senti che bella questa, ma magari c'ha 30 anni, cioè voglio dire, mai non è stato così tanto capito quegli anni là, secondo il tuo punto di vista? Beh, io penso che lui fosse, intanto si dice Nemo profeta in patria, sì, no? Questo è vero. Questa è la risposta più facile. Ti dico, secondo me, quando si è a questi livelli di genialità, di poeticità, guarda i vari Gaber, Tenco per esempio si è suicidato perché la gente non capiva la sua musica. Certo. Cioè, siamo a dei livelli ancora ulteriori. Gaber almeno ha continuato, ha perseverato per tutta la sua vita. E poi tantissimi cantanti, potrei citare degli artisti, posso dire Claudio Lolli, che è una persona che non ha avuto nessuna fortuna e scriveva e scrive, secondo me, dei testi che meriterebbe di essere tuttora in testa alle classifiche. Altri artisti che adesso vengono ascoltati molto meno e a discapito loro si ascoltano delle persone che sicuramente valgono un attimino meno, chiaramente questa sera non farò nomi, però sai, quando sei così avanti probabilmente è anche difficile per la gente comprenderti. Sei 30 anni avanti e la gente ti capisce 30 anni dopo, cioè. Sì, quindi io spero che non mi capisca nessuno. No, nel senso che ti capiscono subito, no. Forse è meglio. Senti, io direi di far ascoltare subito la tua voce, non solamente parlata ma anche quella, sì, cantata. Giusto, mandiamo un pezzo. Cosa hai scelto allora? Ma io come è la sigla iniziale, è l'eterno dilemma della mia vita da cantautore. Io vivo nell'eterno distico tra cercare di scrivere qualche cosa di commerciabile, di vendibile, appunto di comprensibile immediatamente, e invece di infilarci magari la morale o di infilarci il sostrato filosofico o politico-sociale nei pezzi, e non riesco mai a mixare le due cose. Per me un pezzo che riuscirà a mixare le due cose sarà il vero pezzo riuscito per me. Il brano si chiama Un po' Pop. Io vorrei essere pop, io vorrei essere pop, e invece mi costringo a parlare di sociale, del mondo che sta male, della gente che non va. Io vorrei essere pop, io vorrei essere pop, E invece mi diverto a fare il verso ai miei colleghi e i loro sprechi di genialità. E sono un pop pop, un pop pop, un pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. E un po' no, bom bom bom, un pop pop, un pop pop, un pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. E un po' no, come vorrei parlare un po' d'amore, quello bello, quello che fa rima con il cuore, dire farfallina, fragolina, tipa ciao, e parlare di notti al telefono, dialoghi al citofono, grandi tormentoni tipo fiction. Niente, io vorrei essere pop, io vorrei essere pop. Una pop come Baglioni, come i Negramaro o le Vibrazioni. Io vorrei essere pop, io vorrei essere pop. Ma quando provo a scrivere qualcosa di banale, mi vengono le bolle e ci infilo la morale. Sono un pop pop, un pop pop, un pop pop pop pop pop pop pop pop pop. E un po' no, bom bom bom, un pop pop, un pop pop. Cose tipo l'ineffabile silenzio del tremore di una foglia che si staglia al limitare di un rapporto occasionale. E parlare contorto è difficile, come fa qualche nome stimabile che si merita davvero i miei più grandi complimenti per come ha rimediato alla mancanza di argomenti. Io vorrei essere pop, io vorrei essere pop. Pop come Luna, pop come Baglioni, come i Negramaro e le Vibrazioni. Io vorrei essere pop, io vorrei essere pop. Ma quando provo a scrivere qualcosa di banale, scatta la mia sindrome da voglia di comunicare. Un pop pop, io sono un pop pop, un pop pop pop pop pop pop pop pop pop. E un po' no, bom bom bom, un pop pop, un pop pop, pop pop, pop pop, pop pop, pop pop. Blu Radio, Blu Radio Sera, Blu Radio Sera. Allora, sei proprio un po' pop, un po' pop, un po' pop e un po' no. È bello perché io credo che mi vedano le persone, sì, che sono, sì, sì, mi hanno visto canticchiare la mia canzone. Io certo. C'ho un tecnico del suono, un tecnico di sala qui dall'altra parte, eccellente, che cercava di farmi capire le cose. Io non sentivo quello che mi diceva, mi faceva i gesti, mi parlava in alfabeto muto. Allora, è per quello che ridevo come un pazzo, non è che rido delle mie canzoni, non le conosco abbastanza bene. E sei proprio gabberiano qui, insomma. Sì, sì, ho voluto aprire proprio, sì, un po' uno dei pezzi in cui sono più gabberiano proprio. Ma mi piace un po' anche prendere in giro e prendermi in giro quando scrivo. L'autoironia è fondamentale, l'hai visto anche in teatro quando, nel mio personaggio di quel musical là, giocavo molto, no, sulla, con l'unico neo che ti hanno fatto morire, però insomma, no, non l'ho scritta io, no, riesco a morire in maniera eroica, coraggiosa, divertente, sì, sì, lo stesso. Sì, sì, comunque sì, era un personaggio molto ironico. Poi quella, a me comunque ne parleremo dopo perché c'è tanto da parlare di quello. Certo, assolutamente. Di quel musical che mi ha entusiasmato veramente, poi l'ho detto un sacco di volte. Allora, questo un po' pop racchiude un po' il tuo modo di essere, dice, insomma, questo, sì, infatti, un po' ironico, insomma, un po'. È l'introduzione dei pezzi che vi farò sentire, cioè questa eterna ricerca di una canzone in cui si riesca a fondere la commerciabilità del brano con un sostrato importante, uno zoccolo duro forte. Cioè, secondo me una canzone che non dice niente, che ti lascia lì senza niente, beh, non vale neanche la pena di essere scritta. Per me una canzone, quantomeno, quando hai finito di ascoltarla, ti deve lasciare qualche cosa. Devi poter dire porca miseria, non ci avevo mai pensato. Oppure, al limite, porca miseria, non l'avevo mai vista da questo punto di vista o non avevo mai pensato di trattarla in questo modo. Perché se parli della solita canzoncina d'amore, sentirlo lo dice, no? A me piacerebbe parlare un po' d'amore e cose, però non ci riesco, alla fine devo infilarci il messaggino, la morale, il fulmen in cauda, no? Dicevano i latini. E questo mi diverte anche molto farlo, quindi non riesco a rinunciarci. Quando faccio una canzone che sembra banale, dico adesso li frego, alla fine gli do la mazzata finale. E da una parte mi diverto io personalmente, poi dopo dico ma verrà accettata dalla discografia tradizionale? E la risposta è no, e io evito dribblo. Io andrò forse controcorrente, non lo so, ma sta di fatto che secondo me l'artista deve fare comunque una cosa che piace a lui. Se poi non piace a me, che io ascolto, non vuol dire che sia brutta la canzone, nel senso che l'artista deve fare una cosa che piace a lui e che deve essere contento lui. Poi se magari la massa non gli piace, quello è un problema diverso, magari c'è un'altra minoranza che invece magari gli piace, oppure può essere il contrario. Sì, cioè, se no sei un servo della gleba. Cioè, bravissimo. Fai quello che ce ne sono tanti. Sì. Ce ne sono tanti che sono partiti come artisti e sono finiti servi della gleba. Con dispiacere lo dico, perché io ascolto dei pezzi di qualche anno fa di questi tanti e dico ma come hanno fatto a finire da quella parte là, a diventare un pochettino parodie di se stessi. Ecco, questa cosa qui è la cosa che mi fa più paura di quell'ambiente lì. Poi naturalmente io non nego, così come ci sono frutti buoni e frutti marci, molto probabilmente esistono anche dei produttori discografici illuminati che hanno voglia ancora di promuovere, di portare avanti progetti artistici un attimino più tirati per i capelli o più azzardati o a rischio, ecco. Io credo che sia un po' il problema della politica, no? In questo momento abbiamo dei politici che sono quasi in età pensionabile e che non hanno molto interesse ad investire sul futuro, un futuro che non vedranno, e temo che per la discografia sia un po' lo stesso. I grandi dinosauri che muovono le masse, che muovono anche le masse di soldi, sono un pochettino avanti con l'età, quindi chi gliela fa fare di investire su un ragazzo di 20, 25, 30 anni che è un prodotto incerto, che è un prodotto che non si sa dove arriverà? Molto meglio fare le compilation di artisti già straaffermati che è da 40 anni che vendono dischi, perché è un investimento sicuro. E poi ci mettono una canzone nuova. E poi ci mettono una canzone nuova, e tu sei lo sforzo è minimo, è il risultato è il massimo. E chi fa la collezione è costretto ad acquistare. Io ne so qualcosa perché sono tra l'altro un amante dei Pooh. Sì, no, straordinario. Guarda, riascoltavo il concerto del Palasport l'altro giorno, riascoltavo Inca e dicevo come gli è uscito quel pezzo. Così. Chapeau ai Pooh dei bei tempi. Assolutamente. Certo. Vabbè, insomma, va bene. Senti, ma le canzoni le fai completamente, totalmente tutte quante tu o ti fai aiutare? Ma l'idea viene da me principalmente, poi magari mi faccio aiutare da qualche arrangiatore o da qualcuno che mi lancia qualche spunto interessante o cose di questo tipo, però siccome sono proprio intime, sono personali, sono espressione di quello che sento, difficilmente faccio collaborazioni. Ho fatto delle traduzioni, dopo ne canto una, però difficilmente scrivo in gruppo. Devo dire che il mio brano che ha venduto di più è scritto in gruppo, che è l'ultimo, la sorpresa che faremo quello alla fine. Che ci farai dopo. Quello è un brano che ho scritto in condivisione con Dino Stewart, che saluto, spero che mi stia ascoltando, e con Goffredo Orlandi, che è un bravissimo autore di musica e che era autore di questo brano, che era destinato a diventare una canzone latinoamericana, invece no, io l'ho trasformata in quello che poi è diventata. Però adesso continuiamo magari con la roba mia, poi dopo quello lì lo teniamo dopo come sorpresa, no? Ecco, è arrivato Maurizio, visto? È arrivato Maurizio. Adesso arriva. Saluti anche a Maurizio che arriva da adesso questa parte. Adesso si posiziona. Allora, facciamo ascoltare qualcosa di acustico. Sì, dai, suoniamo un po'. Guarda, c'è anche una chitarra qui, adesso la chitarra dal cilindro abbiamo la chitarra. Cosa ti fai ascoltare? Ma allora, io direi che, tanto per legarci alle canzoni che lanciano fulmini e strali in coda, vi faccio sentire un pezzo che ho presentato al Festival Gaber nel 2005, un pezzo che si intitola Sara Spara, e che io mi avvalgo di una base con un arrangiamento di Mauro Abbatiello, che saluto anche lui, che appunto dicevamo collaborazioni con arrangiatori, e ve la suono io invece chitarra e base e ve la canto dal vivo. È okay. Un pezzo, vabbè, ascoltatelo. Sara prese una vecchia felpa e legandola stretta in vita, compiaciuta dai suoi blue jeans e dall'essere dimagrita, si sedette in un posto in fondo sopra l'autobus della scuola, appoggiò lo zainetto a terra, prese in mano la sua pistola, si guardò per un attimo intorno, poi uccise un anziano signore e la ragazza che aveva accanto con il sole 24 ore, poi si mise a guardare fuori le altre macchine dal finestrino e sparò senza alcuna pietà a un ragazzo sul motorino. Sara, Sara, Sara, spara. Sara, Sara, Sara, spara. Sara, uscita di corsa per strada, prese il collo di una vecchietta e riuscì a minacciare i passanti con il filtro di una sigaretta. Spalancò la portiera ammaccata di una macchina rimasta sola ed uccise il conducente con sei dita di lama in gola. Con la macchina all'impazzata provocò un incidente mortale, poi gettò nove bombe a mano sul pronto soccorso del primo ospedale. Si nascose nel folto di un parco dove sorprese una coppia di amanti, a cui fece saltare il cervello nonostante suppliche e pianti. Sara, Sara, Sara, spara. Sara, Sara, Sara, spara. Nel frattempo lungo la strada si era adunata la polizia, con i mezzi dell'antisommossa ben decisi a sbarrarne la via. Lei estrasse il mitragliatore dalla fibbia della cintura e cominciò a sparare alla cieca sugli agenti della questura, quando un colpo la fece saltare e cadere due metri più indietro. Una scritta in caratteri rossi comparve chiara attraverso il vetro. Sentì sua madre gridare a tavola, a piedi scalzi corse in cucina, poi tornò un attimo in sala di corsa, spense la play e staccò la spina. Sara, Sara, Sara, spara. Sara, Sara, Sara, spara. Sara, Sara, Sara, spara. Sara, Sara, Sara, spara. Con il finale anche, Hai fatto con tutto. Il finale, sì, dai, decisamente pop questo. Sì, sì, decisamente pop, con il giochetto, no, della PlayStation, no? Che questa grande strage in realtà non era altro che un videogioco. Il giochino è, sì, è una struttura decisamente più commerciale. Insomma, vuole puntare il dito contro questa invasione, no, esagerata del virtuale. Sembra vero, no? Questa entra, stermina tutti in maniera impune, eppure in realtà sta solo giocando. E tutti ci credono, lei per prima, ma anche noi quando l'ascoltiamo, no? Le persone che l'ascoltano credono che questa Sara stia facendo da sola tutta questa strage degli innocenti, in realtà si tratta solo di un videogioco. Ciao Maurizio. Buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera Paolo. Buonasera, come Maurizio, stai? Bene, ti vedo in forma, benissimo, in ottima forma. Ho sentito in questo momento il pezzo. Sì, pop, ma anche se è un rocchettaro, io ho visto come spendevi la chitarra, c'è poco da fare. E sei un rocchettaro. Sì, un rocchettaro che sussurra questa sera. Un rocchettaro che sussurra, ma non vuol dire niente, cioè il rock è nel sangue. Anche sì, no, ci nasco, ci vivo, pane e Jesus Christ Superstar. Esatto, pane Jesus Christ Superstar. Esattamente. Abbiamo i gusti in comune io e te. Assolutamente. Mamma mia, che lungo. Uno splendido musical che non sente gli anni e che veramente continua a essere riproposto in 10.000 versioni diverse ed è bello 10.000 volte. Chi ci vedi più, Carl Anderson o Ted Neely? Oh mamma, no, Carl perché Giuda ha un'emissione, un modo di cantare sporco che è più mio come tipo black. Come tipo di impostazione, più aggressivo. Anche se adesso mi avete sentito veramente sussurrare, dopo tiriamo fuori un po' di black. Esattamente. Allora, ricordiamo sempre che questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Vi ricordo i nostri numeri telefonici 049 875 6423. Se volete mandare qualche sms invece a Paolo Barillari, alias, lo diciamo dopo chi, 346 23 20 0 33. La voce è quella di Agostino Spolore, assieme a Maurizio Calzavara, che in questo momento è arrivato. Benvenuto anche a te, Maurizio, buonasera. Grazie Agostino, grazie ai nostri ascoltatori che ci stanno sentendo stasera, assolutamente in diretta, chiaramente. Assolutamente in diretta, stiamo scoprendo questo grande artista eclettico che fa di tutto e di più, insomma. È vero Paolo? Si impegna, ci prova. Io ho letto la tua biografia, un sacco di cose hai fatto, una cosa incredibile. Ho letto una cosa interessante, non so se l'avete già citata. Cosa? Il Mami di Giorgio Strehler. Il Mami di Giorgio Strehler. Il Mami di Giorgio Strehler. Sì, abbiamo iniziato con questo. Mami, 40 di 40, no? Avevo 7 anni, 11 mesi, se neanche. Dicono 8, quindi 7 anni e 11 mesi. C'era una serata del villeggiante in Liguria. Insomma, tutti cantavano le cose abbastanza commerciali di quel tempo. Ho provato a bucare da quella parte, no? È bucato bene. Sì, avevo preso un premio, ma pensa che roba, cioè, ce l'ho ancora. C'è una piccola coppa offerta da una gioielleria di Moneglia. Ce l'ho ancora lì. È un bel ricordo perché poi debuttare su un palco così piccolo e cantando in dialetto è divertente. Vuol dire che avevi già la predisposizione, Paolo? Ma non lo so, la predisposizione per i dialetti sicuramente mi piacciono, li amo tutti tanto. Per l'arte non lo so, poi per adesso sì, poi sarà il tempo a dire se continuerò ad averla questa predisposizione o meno. Ecco. Bene, poi vuoi suonare qualcos'altro? Siamo qui per suonare. Anche perché poi io volevo. C'è quel discorso che mi sta a cuore, della discografia. Quel discorso lì della discografia che ti sta qua. Sì. Suoniamo un'altra canzone, poi parliamo della discografia. Va bene. Quando ci fai ascoltare adesso? Vi canto una canzone che si chiama Il termine ti amo. È un pezzo che amo molto, però vedi, si chiama Ti amo e lo amo molto. E lo amo molto per un motivo, principalmente, perché, ecco, in questo secondo me sono riuscito abbastanza a riassumere il concetto di creiamo una canzone che sia anche un piccolo trattato sul rapporto di coppia, però facciamola in maniera commerciale, facciamola in maniera che possa essere fruibile a tutti. Questo pezzo, devo dire la verità, l'ho fatto sentire a persone di 60, di 30 e anche di 15 e tutti mi hanno detto è un pezzo che arriva al cuore, un pezzo che si capisce. Quando ci sono tre generazioni che dicono è carino, vuol dire che evidentemente potrebbe anche avere la possibilità di essere commerciabile, magari non attraverso i dischi, perché ne parliamo dopo. Ok. Parliamo un po' di noi, da dove vieni ti accompagno se vuoi, lui e lei, e cominciò così, discorsi che nascevano spontanei in noi. Siamo diversi, siamo quel che siamo, vietato dire insieme un'avventura e la viviamo. Poi lui e lei, le uscite in compagnia, sempre tutto nuovo, sembrava una magia. Dai baciami, che questa notte ci sto dentro, mi sa che ormai ci metteremo insieme, tanto siamo speciali, siamo siamo quel che siamo, fino alla comparsa del termine ti amo. E allora sei l'inizio di una grande serata, sei una nuvola di panna montata, sei la festa che ora noi iniziamo, sei la mia vita, sei il termine ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo. Lui e lei e i giorni che passavano così come può passare un aeroplano, eccoli qua, momenti di silenzio, un bacio due fanno d'assenzio in fondo. Siamo normali, siamo quel che siamo, nonostante la presenza del termine ti amo. Ma tu chi sei per comportarti in questo modo? Dai, dove vai? Mi lasci quasi sempre solo, guarda che ti vedo, sorridi solo ai miei amici. Ma come stai? Ma proprio io che cosa dici? Siamo banali, ecco quel che siamo, voglio un referendum contro il termine ti amo. Perché ora sei la fine della grande serata, sei una nuvola ma su carta stampata, sei la festa da cui ora scappiamo, col terzo incomodo del termine ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo. Il termine ti amo, non so bene cosa sia, se il primo vero indizio o l'ultima bugia. Non so se in una storia sia un attimo di gioia o un banale promemoria per salvarti dalla noia. Una frase improvvisata in certe fragili mattine, la conferma di un inizio o l'inizio della fine. Ciao, come stai? Mi manchi un po', lo sai, se non ci sei. 40 sigarette, il tempo non passa mai. Ricordi ancora i primi tempi, noi, sempre noi. Magari troppo noi per essere così diversi, essere ciò che siamo. Vediamoci stasera. In fondo io ti, in fondo io ti, io ti, io ti. Bravo Paolo, ti dico due cose su questo pezzo che adesso ho recepito. Ah. All'inizio mi ricordavi il primo Camerini, ti ricordi? Caspita. Il primo Camerini che faceva queste ballate un po' folcheggianti. Poi alla fine il teatro canzone c'era assolutamente, c'era un momento di stop, cioè il musical veniva fuori. Però all'inizio un po' Camerini, sì, ma è una bella cosa. Ma caspita, Paolo. Camerini era stato un grande artefice della scena milanese all'epoca. Si sente il vuoto di personaggi così, perché i Camerini, cioè il giovane artista molto pop, ma che riesce anche a essere intelligente. Camerini è un artista un po' pop, vedi? Sì, è lo scopo, cioè Rock and Roll Robot era un pezzo geniale, certo, per certo. L'epoca, ma tuttora, quando lo si sente per radio, le radio devo dire che continuano a passarlo, sì, nonostante siano passati. Ma lui fa ancora quanto? 30 anni? Sì, sì, sì. Ma lui fa ancora. C'è la parte dell'intelligenza cosiddetta milanese, Camerini, Finardi, sì, i fulcri di certe cose. Anche Finardi ha scritto delle cose. Anche Finardi ha scritto delle cose splendide. Straordinario. E io ricordo il Camerini, primo Camerini, molto interessante, era anche produttore, cioè cercava diverse strade. Chiaramente poi il successo l'ha avuto con pezzi leggermente più commerciali, però certo. Secondo me ricordi, almeno nei momenti iniziali del pezzo, ricordavi quei momenti. Ma vedi, tu dicevi giustamente ha cercato numerose strade, oggi è anche difficile cercare diverse strade. È vero, hai ragione, perché non ci sono. Esatto. Cioè, il concetto è una di... via unica, dici. Sì, sì, no, le hanno abbandonate queste strade, non sono più praticabili, ci sono cresciuti sopra i rovi, le spine, oppure ci sono dei divieti d'accesso inspiegabili, sempre rimanendo nella metafora. Certo, certo, perché alla gente impediscono di gestire, di creare, di trovare. Cioè, ci hanno messo le autovelox, esatto, su quelle strade. Le autovelox. Se vai un attimino più veloce degli altri, ti fottono, multa, tac, via. No, sei andato troppo oltre. Ed è per quello che mi fa un po' paura. Poi io so che Ago scalpita per parlare di questo argomento. No, mi hai, come dire, incuriosito. Io ti ho stuzzicato diverse volte quando abbiamo parlato al telefono e anche messaggi scritti, eccetera. E tu mi hai sempre risposto un po' così, però comunque mantenendo la tua linea, cioè la vogliamo dire qual è? Sì. Lui non vuole fare dischi fisici. No, non mi, cioè, interessa. Cioè lui c'ha le canzoni, le trovate tranquillamente su internet. Io ho un sito internet che è www.paolovarillari.altervista.org. Chi vuole va lì e ascolta la mia musica. Free, completamente free. Poi se avete voglia, quando io suono da qualche parte, ve lo faccio sapere, mi venite a sentire e lì vi chiedo un piccolo obolo per permettermi di vivere. Ma non vendo dischi, non mi sembra, mi sembra questo il futuro della musica. E allora adesso la domanda è per tutti, perché? Perché io leggo nel live, nell'espressione diretta, nel rapporto diretto e nell'interazione diretta con il pubblico, il futuro della musica. La discografia è stato un episodio, un bellissimo episodio. Se ci riflettiamo un attimo, una volta non c'era tutta questa comunicazione. La televisione, le televisioni musicali sono arrivate dopo. C'erano le radio che passavano i dischi, ma non avevamo il neanche il registratore a cassetta per registrarci le canzoni dalla radio. E poi le radio furbamente non le mandavano tutte, le sfumavano, ci interagivano sopra. Adesso c'è internet, c'è YouTube, ci sono tutti i canali del mondo. Entri in un locale, c'è un live. Vai in un negozio, compri una pila di 320 compact disc a 2 euro e ti masterizzi. Cioè, il disco come supporto per sentire la musica non è più così necessario. Basti guardare che successo incontrollato stanno avendo quei social network in cui si scarica la musica, oppure semplicemente quei programmi che sono fatti apposta per scaricare la musica da internet. È illegale, ma non lo sarà più per molto. Si renderanno conto che non lo possono arginare. Già adesso non lo arginano, nonostante sia illegale, perché i supporti sono diversi. I supporti della musica finalmente stanno tornando a essere musicisti. Se vorrai andare a sentire la musica genuina, dovrai andarteli a cercare, e a cercare nei teatri, e a cercare nei palazzetti, negli stadi, nei piccoli locali, nelle piccole radio come questa, dove si dà ancora la possibilità di cantare dal vivo e di esprimersi per quello che si è. E sarà una bella sfida, io in parte lo auspico, in parte ne ho paura, perché lì chi non vale va fuori. Il disco ti consente di barare anche un pochettino. Conosco stuoli di stonati che hanno fatto carriere discografiche, o stuoli di persone che magari sono stati aiutati a perfezionarsi attraverso un disco, che hanno avuto grazie al disco quello che non hanno potuto avere dal vivo, persone che non erano in grado di sostenere dei live, che però sono durati decine e decine di anni grazie ai dischi, e questo adesso si è fermato. Ci stiamo riavvicinando alla dimensione umana, cioè io, una chitarra e il pubblico. Sei capace, ti applaudo; non sei capace, vado a sentire un altro, senza rancori, ma vado a sentire un altro. E siccome io vedo questo come il futuro della musica, ho provato a buttarmici in anticipo. Chi vuole ascoltare le mie canzoni è il benvenuto. Chi non vuole ascoltarle non le ascolta. Non costa nulla a chi le ascolta, e non costa nulla non ascoltarmi a chi non ha voglia di ascoltarle. Credo che sia un ragionamento, non so se giusto o sbagliato, sicuramente molto democratico. Vabbè, su questo non ci sono dubbi, però sai, ti confesso che sei la prima persona di quelli che sono venuti qui che ha questo modo di vedere le con cose. Con calma, bisogna essere pionieri, no? Certo, giusto. giusto, hai ragione. Ci fai ascoltare qualcosa e poi parliamo di quell'evento gigantesco? Sì. Allora, senti, canto un pezzo che con doppia dedica. Ci sono due ragazze che si chiamano Giulia. Una è quella che mi ha ispirato il pezzo con una foto su Facebook, dove era tutta insabbiata dalla testa ai piedi, che stava giocando al mare, e ho scritto: questa Giulia sembra una cotoletta, e da quella frase lì è nata la canzone. E l'altra è una mia amica carissima, che si chiama Giulia anche lei, e che sono sicuro che in questo momento mi sta ascoltando e che ama e apprezza questa canzone. Quindi un grande saluto da Padova alla Sardegna per una Giulia, e da Padova a Grosseto per l'altra Giulia. La canzone si chiama Raccontano che Giulia. quella volta si svegliò col primo raggio. Con l'occhio di chi trema lesse sopra il cellulare quello stupido messaggio. Piangendo si truccò pesantemente e mise addosso i suoi vestiti punk e uscì con una sigaretta accesa e con quell'aria di chissà che cosa fa. Raccontano che Giulia attraversò a piedi il paesino senza nemmeno fare troppo caso alle sue amiche che passavano vicino. Fumava silenziosa nelle orecchie solo l'iPod che sparava ai Tokyo Hotel, ma intanto ripeteva: tu mi lasci ed io mi uccido, che sembrava quasi Brel. E intanto il mare restava a guardare, e intanto il mare, ma che ci poteva fare? Poteva soltanto andare e venire, girarsi e tornare, lasciarsi ammirare, che splendida cosa banale, il mestiere del mare. Raccontano che Giulia ormai era in riva e aveva smesso di fumare. Si tolse le sue Converse e i calzini e a piedi nudi si distese a riposare. Pensava: starò solo a ricordarlo, a detestarlo quasi fino a sera, persino per morire, per buttarsi ad annegare, ci vuole l'atmosfera. Raccontano che Giulia dormì molto e la sognò che la buttava a fondo. Sognò di sprofondare l'acqua calda, molto calda, fino al nucleo del mondo. Sognò che era sudata e qualcuno la salvava, qualcuno le tendeva la sua mano. Poi si svegliò di colpo e c'era un tipo molto rock che la carezzava piano. E intanto il mare restava a guardare, e intanto il mare, ma che ci poteva fare? Poteva soltanto andare e venire, girarsi e tornare, lasciarsi ammirare, che splendida cosa, per quanto banale, il mestiere del mare. Dai, alzati Giulietta, ti prendi un accidente, sei al sole da 3 ore. Sono stato ad osservarti, soltanto ad ammirarti e ascoltare il tuo sapore. Ti ho vista rigirarti sulla sabbia e sollevarti la maglietta. Pulisciti un momento, più che punk, mi sembri una cotoletta. Raccontano che Giulia rise molto, lo abbracciò e parlarono per ore. Si fecero un bel bagno, mangiarono granite, sembrava quasi amore. Poi quando venne sera lui le disse: se ce n'hai voglia ci rivediamo dopo. E di quel messaggino, che era ancora lì in memoria, ormai le importò ben poco. Raccontano che Giulia raccolse i suoi vestiti e con lui si avviò in paese. Ma prima di lasciare la spiaggetta corse in fretta sulla sabbia con il piede. Lasciò una scritta sopra il bagnasciuga, forse proprio perché la mangiasse il mare. Lottate con la vita, ma prima di cadere, fermatevi a sognare. Fermatevi a sognare. Fermatevi a sognare. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. posso dire che è un testo molto bello e un pezzo assolutamente grazie. Che si unisce al testo musicalmente. Pezzo, le Giulie avevano ragione ad apprezzare questo pezzo, è molto molto significativo, molto interessante. Poi si sente che l'hai cantato con un certo pathos, con un certo trasporto. Sì, no, beh, quello per forza fondamentale. Ti è arrivato un messaggio? Mi è arrivato un messaggio, sì. Chi è? Sì, ti stiamo ascoltando, grazie della dedica dalle due Giulie e da un tipo molto rock. Il tipo molto rock è il ragazzo di Giulia, che è quello che mi ha ispirato. E giustamente, avendo scritto una canzone basandomi su un personaggio che è questa Giulia ha un fidanzato molto rock, che suona anche lui, e qui auguro una brillante carriera, splendida carriera. Ho visto dei filmati qualche tempo fa di lui su YouTube che suonava, devo dire che il ragazzo, pur in giovane età, promette molto bene, quindi tanti auguri anche a Gabriele, che è il ragazzo di una delle due Giulie. Benissimo. L'idea dell'arrangiamento del pezzo come l'hai avuta, Paolo? L'arrangiamento, allora, che fai tutto quanto. Sì. L'arrangiamento di questo pezzo voleva essere un sapiente, più o meno, poi se è venuto non lo so, mix tra una ballad degli anni 70 e un po' di suoni un po' più commerciali, un po' più odierni. Quindi c'è molto power chord nei ritornelli, c'è un cantato un attimino più lasso, un attimino più libero, un po' più alla Vasco Rossi durante i ritornelli, e questo ne fa un brano più moderno, più odierno, mentre nelle strofe più ballade, più arpeggiate, più morbide, più ballatone alla De Gregori. Ecco. Citiamo Francesco De Gregori, che è un artista che io adoro e che veramente merita, un altro di quelli che in questi tempi oscuri meriterebbe molto più spazio di quello che già ha, per carità. Sì, certo. Ma specialmente tra i ragazzi lo conosco un poco ed è sempre una scoperta. Quando io faccio ascoltare i ragazzini che ascoltano Vasco, quindi che sanno apprezzare la canzone d'autore, gli faccio sentire De Gregori, che tra l'altro è amatissimo da Vasco, e mi dicono: chi è questo qua? Come chi è questo qua? Porcaccia miseria. È un altro dei miei. Prima abbiamo parlato di Gabriel, adesso parliamo di lui, un altro dei miei papà musicali. Di cosa fa sentire di De Gregori, Paolo? Di De Gregori, io. Cosa canto di De Gregori? Di tutto, mi piacciono veramente. Il primo De Gregori o il De Gregori, l'ultimo De Gregori? Il primissimo mi fa impazzire, per me Santa Lucia è una canzone. A me piaceva molto, non so, ti ricordi, I Musicanti. I Musicanti, accordano il violino, questa sera suoneranno sulla luna. È un non importa se la gente del caffè non capirà la loro anima, I Musicanti non piangono mai. Esatto, è un pezzo brevissimo ma talmente coincide, talmente denso. Guarda, è una cosa meravigliosa. Visto che non era previsto di suonare De Gregori, al massimo lo possiamo citare. Io te ne cito una che è un altro quadro, che è del 1989, che dice: il bosco piano piano si riprende le case, sono immobili gli aeroplani e gli aeroporti sotto la luna, ammutoliscono i cani sulla groppa delle montagne, sono disperse le greggi e allontanati i pastori. Io vivo fuori, in questo cosmodromo messicano. Tutto è forte e chiaro. Il cielo è un gigante, la vita è un acquario, la luce è immensa. Per me questa non è una canzone, è un quadro. Sì. È una bellezza incredibile. E ce ne vorrebbero di cantautori così anche oggi. È lui un poeta, c'è poco devo da dire, fare. Poeta. Assolutamente un poeta. Ago, eccoti qua. Dimmi. Allora, dicevo, ti regalo due sorprese. Due sorprese? Non una, due. Sentiamo. Questa è la prima. Se solo potessi ritrovare quel suono perduto che ci unisce, la musica, così da condividere il nostro amore con tutto il mondo, e a quel punto avremo tutto quello che vogliamo, tutto. Adventure seeker on an empty street, just an alley creeper light on his feet, a young fighter screaming with no time for doubt, with a pain and anger I can see a way out. It ain't much I'm asking. I've heard him say, all I want is a future. Move out of my way. Guarda, grazie. Questa era la prima sorpresa. Le lacrimucce, veramente. Sì, sì. Però c'è un'altra sorpresa che forse è ancora più bella, è quella di Scaramouche. Oh! Ci sei? Marta! Marta, benvenuta tra noi. Che bello, guarda, prima ascoltare quel pezzettino di We Were Rock You e i ricordi che riaffiorano naturalmente immediatamente. Tra l'altro, Marta, tu ti stai buttando in un'altra avventura nuova e quindi, visto che mi hai telefonato, tanta merda si dice, grazie, in termine teatrale. Grazie a te, Paolo, anche a te. Che la nostra amica Marta, che dopo aver fatto We Will Rock You con me per un paio d'anni, un paio di stagioni, adesso torna al suo ruolo di Wendy, che aveva già portato avanti con un sacco di successo, lo possiamo dire, no? Tanto è già stato ufficialmente comunicato. E io non vedo l'ora di andarla a vedere, a rivedere, fare Wendy. Sì, guarda, aspetto che veniate a Milano. Quando venite a Milano? Ti aspetto in prima fila. Ci mancherebbe, assolutamente. Grazie ragazzi, io sono contenta di intervenire in diretta perché sai, volevo salutarti, poi mi fa piacere, so che stai facendo questo tributo a Gaber come sempre. Ho detto prima che questo quadro di cui raccontavi, quindi sono d'accordo anch'io con te, di cantautori così dovremmo averne tanti, ma purtroppo ci sono, ma non sempre vengono valorizzati. Certo, quindi... assolutamente. Se ricordiamo che anche Marta ha un bellissimo disco in promozione, in vendita, che è veramente bello. Non toccare questo tasto. Appena io posso condivido ovunque il suo Musica Sarà, perché è un pezzo stupendo che merita. Tra l'altro in quell'album c'è un pezzo che si chiama We Believe, che è una canzone firmata anche da Brian May e che è ancora più bella. Io lo aspetto come singolo quel pezzo, perché è veramente bello. We Believe è un pezzo che merita tanto, ma soprattutto per il significato, come dicevi tu, i quadri che le parole descrivono, no? Sì, è proprio vero. We Believe ha un quadro bellissimo, se possiamo dirlo così. Beh, poi insomma è stata scritta da un certo Brian May, no? Quindi un signore che come paroliere direi che si fa rispettare. Beh, paroliere, e poi direi anche un'altra cosa, una persona che ha tanto cuore. Sì. E ogni cantautore secondo me deve avere tanto cuore per scrivere tanto. Sì, sono perfettamente, che dire, non posso aggiungere altro. Tra l'altro sia io che te abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo di persona e devo dire che è una persona che, nonostante 40 anni sui palchi a fare veramente il dinosauro della storia del rock, è una persona di un'umiltà, di una gentilezza, di una disponibilità. Marta, tu confermerai questo, vero? No, certo, confermo. Anzi, ti dirò di più, che ultimamente stavo vedendo degli articoli di giornale di molte persone anche uscite dai stessi programmi televisivi come Amici e altri programmi, che si lamentano per 2 o 3 autografi in più firmati e mandano a quel paese i fan, no? Io vorrei dire che Brian May, dopo tutta questa esperienza e 40 anni di palchi, quando è venuto in Italia è rimasto fino alle 4 di notte per firmare ogni autografo ad ogni fan. È vero. È una cosa che, cioè, veramente dovremmo tutti imparare da lui e non rifiutare neanche una persona che viene a chiederci un autografo, perché quella persona vuol dire che ti sta dando da mangiare, uno, e seconda cosa, che ama la tua musica, ama te, come fai a mandarla via, capito? Esatto, cioè, esatto. Ricordiamoci sempre che noi siamo qui perché loro sono lì ad ascoltarci. Marta, certo, hai detto, noi non ci saremo. Hai detto una cosa sacrosanta, sì, cioè, sottoscrivo. Uno dovrebbe, sembra scontata, no? Poi diciamo che siamo abituati soprattutto a vedere dall'estero questi divismi, no? Il divismo, quello che fa così, ma quelli che sono all'estero sono molto più umili di molta gente in Italia che esce da un reality e fa finta di essere già la star di Hollywood, invece non è così. Certo. Assolutamente, assolutamente. Marta, io mi ricordo ancora quando abbiamo parlato io e te, che mi raccontavi l'emozione nel vederti all'improvviso Brian May sul palco. Madonna, io penso anche Paolo, cioè io sono svenuta perché te l'ho detto, sapevo sì, che rientrava entrava a suonare dietro di me dopo che io facevo il mio piccolo pezzo di Bohemian Rhapsody, quindi praticamente quel pezzo non l'ho fatto la sera della prima perché ero in lacrime. Immagino. E i fan cantavano per me sotto io invece piangevo e cantavano loro al mio posto. Guarda, a me sembrava di essere in un poster. Dicevo, non è la verità, io sono in un poster dei Queen per una, sai come Mary Poppins che salta nei quadri? Ecco, io ero saltato nel poster, me lo vedevo di fianco e dicevo, no, non posso essere io di fianco a Brian May. È stata una sensazione. Marta, vabbè, io penso che tutti, cioè mio padre era un fan dei Queen, quando mi faceva vedere il disco di Queen mi faceva, vedi questo è oro, mi faceva. Marta, c'eri anche tu quando si è rotto il ginocchio? Sì, quando io mi sono spaccato la prima. Ah, sì, come? Ma Di Paolo ne ha combinato di belle. Ce l'ha raccontato, sai? Bella. Ce l'ha raccontato fuori diretta, adesso non so se vorrà raccontarlo lui. Ma no, beh, in due parole. Sì. Mi ero fatto male alla prima, giustamente, per festeggiare, siccome c'era Brian May sul palco. Avevo preso un po' male le misure del palco. C'è un binario dove scorre l'Harley Davidson. E io nel cadere, quando mi ammazzano, sono caduto giù diretto in ginocchio e ho preso in pieno il binario. Senti come ride Marta. È che dopo, alla fine del primo tempo, ero lì con gli altri a complimentarci. Dai, ce l'abbiamo fatta, eccetera, eccetera. Mi guardo il ginocchio e zampillava sangue. Sai, tipo cascatella. E io, che con tutta l'adrenalina che avevo dentro, non mi rendevo assolutamente conto di dove mi ero fatto, ma non sentivo dolore. Guardavo gli altri, guardavo Marta, guardavo Loredana, gli altri, ma dov'è che mi sono fatto male? E non capivo. E sono arrivati anche qui, è arrivato anche Brian, che anche lui preoccupato cercava di capire, e mentre mi faceva la fasciatura mi diceva ti fa male, beh, naturalmente in inglese tutto quanto, e io gli dicevo no, veramente non sento nulla. Era tanta l'emozione di essere lì con loro sul palco che non ho sentito assolutamente niente. Guarda Paolo, la cosa che mi ricordo di più i giorni delle prime serate è la parrucca. Sì, la parrucca, la vecchia parrucca all'inizio mi avevano messo. Sembrava su questo gatto morto. Mamma mia, terribile. Poi cadeva, perché pesava, mi cadeva durante le prove. Una volta, non so se in prova generale o il giorno prima, mi è cascata mentre facevo la battaglia finale. Sono caduto pelato, dicendone di tutti i colori, ma porcaggia sta maledetta parrucca. Va bene, Marta, tu sei un'amica ormai di questa emittente, lo sai. Ci siamo sentiti molte volte, sei una carissima amica mia, ma soprattutto sei un'amica di questa emittente. Noi ti ringraziamo come sempre della tua disponibilità, che è sempre totale. È inutile che te lo dica, perché tanto già lo sai, giusto? Sì, la ogni promessa è debito. Ah, ecco. Rispetterò la mia promessa. Adesso c'hai anche Paolo che è dalla mia parte. Io sono testimone, Marta, devi venire qua, stavolta certo. C'hai il testimone. Assolutamente. Marta, senti, io ti invito già da ora, se per caso ti capita il 29 settembre di essere a Roma o il 1 ottobre di essere a Milano, faccio due volte il mio tributo a Gaber, e quindi mi piacerebbe tantissimo averti tra il pubblico e poterti salutare di persona, e io invece ti verrò a vedere non appena arriverete a Milano con Peter Pan. È una promessa che ti faccio. Grazie, Marta, se passi sono anch'io nelle prime file, promesso. Se non sto provando e non sono in giro con Peter Pan, vengo volentieri. Va benissimo, allora ti aspetto. E se passi da queste parti, avvisaci. Sono da te, Agostino. Ciao bella, un bacione. Ciao, un Marta, abbraccio, tesoro, grazie di aver telefonato. Ciao, un bacio. Ciao Marta. Ciao. Ciao Marta, ciao. Allora, adesso siamo in tema di questo splendido musical. Lo vogliamo fare qualcosa in merito? Va bene. Allora, vabbè. Questo è un pezzo a cui sono legatissimo, perché è un brano bellissimo che ha scritto Brian per Freddy, quando Freddy è venuto a mancare. Un brano che si chiama No One But You e che è parte del musical. C'è un piccolo problema: nel musical non lo canto io, lo canta la mia compagna nel musical, la mia Ozzy, Loredana Fadda, che saluto, e che chissà se non se ne avrà male se per una volta lo sente cantato da me. Speriamo di no. Ma penso proprio di no. Siete amici. Sì, assolutamente sì. Ne ho tentata una versione anch'io. Maschile praticamente. Esatto, una versione maschile. Diciamo questo. Essendo un brano in inglese che andava tradotto in italiano nel musical, mi hanno chiesto di tentare di fare io la traduzione, essendo io paroliere. Io ci ho provato e mi è stata girata una mail del dottor Brian May che diceva: as regard Paolo Translation, I feel inside it the same feelings I felt when I wrote it. Cioè, ci sento dentro le stesse sensazioni di quando l'ho scritta, quindi for me is okay. È una delle mail che io conservo più gelosamente, me la sono stampata in centuplice, milluplice copia. È una cosa bellissima da sentirsi dire da una persona come Brian, di cui poco fa abbiamo parlato e sappiamo che grande è. Questo ho bisogno della base, perché un pezzo dei Queen non si può fare alla chitarra. Mi ha già pazienza. Allora, cosa facciamo adesso? Facciamo uno One But You. Ok. La mano sfiora l'acqua, un altro angelo nel blu sta piangendo anche il cielo a volerlo, sei tu. E in ogni cuore, in ogni dove, la gente sola sempre più lo puoi capire, soltanto tu. Vola su nel sole un po' di più, come una stella che brilla nel blu, è solo un attimo, poi muore. Senza senso e affogo dentro un po' di blues e ti immagino e penso, oh, che avresti fatto ora tu. Pagare i debiti di sempre a molti sembra una follia. Dio, se hai sorpreso la gente col tuo pagare andar via, vola su nel sole un po' di sempre in noi. La festa adesso può finire, ma forse mai lo capirò, se aveva senso avresti scelto tu o no. C'è un volto fermo alla finestra e mentre canto e brindo anch'io, lui mi guarda e sorride. And I never, never say goodbye. credo che sia la prima volta, Maurizio, che bravissimo, vediamo Paolo, bravissimo, una interpretazione del genere. Io sinceramente incredibile, no? Perché avevo gente nel senso che avevo amici vicino, ma se no altrimenti veramente si rischiava l'emozione viva, oh, proprio, mamma mia, no? Commozione, perché ci ho provato, tu sei da proprio seduto e da legato, tu sei proprio l'espressione, come dire, massima dell'artista che interpreta, proprio entra nella canzone. Cioè, vedere un artista che si muove come ti muovevi tu, nel senso buono, Paolo, ci mancherebbe. Però insomma. Ma sai, ero un po' costretto dalla cuffia, non potevo. Di la verità. Diciamo che un po' più di apertura della cassa toracica mi avrebbe anche fatto comodo in questa. Sì, eri costretto stretto dalla cuffia, però ti sei mosso lo stesso. Si è visto l'intensità che davi in quei momenti topici del pezzo. C'è poco da fare. Bisognava tirarlo un pochettino fuori. Naturalmente, io spero che non me ne voglia Loredana, che la canta in maniera divina. Ma cioè, perché te la io ci ho provato, naturalmente. Ma non penso proprio, insomma, che Loredana ce l'abbia con te, ma per questo motivo. Poi è una brava ragazza. Ma ci mancherebbe altro, no? Che devo dire che lei, no, facciamo un plauso a come la canta lei, al gusto e alla voce blues meravigliosa che ha, e alla potenza e all'emissione. È ovvio, io la faccio da maschietto, lei porta la voce femminile verso paradisi incredibili. Sai, certamente. E poi è stata inserita nel musical in un contesto un po' particolare, no? Si ricordano tutti questi artisti, sì, esatto, sì, che sì, sono scomparsi, e poi arriva lei che comincia a cantare questa canzone, sì, prendendosi a Freddy. Insomma, comunque è comunque all'interno di un musical, sì, straordinario. Quanto ti manca? Me lo dicevi l'altro giorno, vero? Da morire, lo so. Da morire. Chi lo sa? Non abbiamo ancora detto, tu sei Brit. Io sono Brit. Uno dei personaggi di questo splendido We Will Rock You che tutti quanti si augurano torni sulle scene italiane. Io sono convinto che tornerà sulle scene italiane, perché secondo me quando c'è qualche cosa di bello difficilmente viene dimenticato, chiuso in un cassetto o lasciato da parte per qualche motivo. Quindi secondo me prima o poi We Will Rock You torna fuori. Adesso non so se in questa stagione o nella prossima. È un musical che ovviamente ha bisogno di grandissimi spazi e di grandissimi numeri, anche dal punto di vista proprio del pubblico, e perché ha dei costi notevoli, molto elevati. Anzi, io vorrei fare i complimenti al produttore di questo musical per l'Italia, che è Claudio Trotta. Qui mando un carissimo saluto, perché ha davvero avuto un coraggio da leone a portare qui questo spettacolo, a portarlo avanti per 2 anni. È uno spettacolo che dietro il quale si muove una macchina da guerra, davvero, non soltanto noi sul palco, ma anche i tecnici e le persone che si occupano del montaggio e lo smontaggio, i fonici, i datori luci. C'è davvero uno squadrone da portare in giro tutte le sere, ed è un musical molto costoso e per questo magari anche un pochettino più difficile da piazzare, no? Da portare in giro in Italia. Ma io sono certo, perché so il coraggio, so la forza della Barley Arts e di Trotta in modo particolare, sono certo che Claudio non ce lo farà mancare We Will Rock You. Tornerà, io ci credo fortemente, e nel momento in cui tornerà io sarò in prima fila a riproporlo, a riportarlo avanti. Quindi diciamo che è come se avessi verbalmente siglato un'esclusiva con questo musical, certo. Assolutamente. A parte del tuo, lo amo in una maniera tale che quello che ho detto prima, la mia speranza, la mia certezza che questo musical riparta mi risolleva un po' dalla nostalgia che ho per questo spettacolo, certo. Qui. Noi eravamo in seconda fila, vero Maurizio? Sì, esattamente. Eravamo io, Maurizio e Adalberto, che adesso arriverà il nostro direttore artistico, e ci siamo gustati questa opera straordinaria. Poi i musicisti sono bravissimi. Sì, ecco, guarda, veramente io tra l'altro ho la fortuna di avere uno dei musicisti di We Will Rock You che suonano per me anche nel tributo a Giorgio Gaber, che è Linda Pinelli, la bassista, sì. Che è una ragazza straordinaria, di una gentilezza, di una simpatia, di un'umiltà incredibile, e tra l'altro di una bravura pazzesca, non sbaglia mai. Io ho paura di Linda, perché è arrivata, io le ho dato questi pezzi di Gaber da preparare, ho detto guarda, non abbiamo il bassista, vorrei integrarti nella nostra band. E lei mi ha detto, ma che cos'è, non ho mai suonato Gaber, lei poi parla pochissimo, ma non so, fammelo sentire. E io gli ho dato sti pezzi e lei 2 settimane dopo è arrivata e ho detto: scusate, me li sono tirate giù queste 2 settimane, non so come verrà. È entrata in studio e non ha sbagliato una nota. C'erano gli altri che la guardavano e ci hai preso in giro, non è vero che non l'avevi mai sentita. Era qualcosa di incredibile. Quindi siamo anche loro in attesa. Io ho sentito Linda l'altro giorno sempre per Gaber e anche lei pensa e dice: no, il rock non si può fermare qui, siamo tutti sicuri che prima o poi torneremo. Certo. Senti, me la devi togliere, mi fai un regalo. Sì. C'è quella scena del musical che è rimasta nella mente di tutti, quella che poi hai proposto, anche quella che... Oh, ma è stupenda quella che annusi le ascelle addirittura alla fine. Ce la fai quel pezzettino? Oddio, recitato così, vestito me lo fai? Da... Sì, ti ricordi quella scena lì? Bastano 30 secondi finché arrivi. È stata qualcosa di memorabile. Ci siamo messi a ridere, ma nella bellezza di questo musical è stata una cosa veramente straordinaria, secondo il mio punto. Non so se mi si vede in webcam fare. Sì, si vede. Va bene, d'accordo. Cos'è che diceva? Non ce la faccio a girare, cercare, fare tutto quello che devo fare se penso continuamente a te. Ma è possibile che non capisci? Non riesco a concentrarmi, a ragionare. Io ho una missione da compiere, non ce la faccio più, sono esaurito. Yatta, guarda, yatta, guarda. Va bene, benissimo. È improvvisatissima questa, eccezionale. È improvvisatissima. Grazie, più o meno. Maurizio, è straordinario. Sì, Paolo. Bravissimo. Cioè, uno che fa musical ha una capacità più del cantante, secondo me. Il cantante fa un suo genere, però chi fa musical ha più difficoltà per andare in certe note, e questo è importante. Tu fai sia il cantante sia il fan musical, concentri le due cose assieme, e non è mica una cosa semplice, secondo me. Ma io spero adesso, quando io canto pezzi come questi non mi ascolto, io vado diretto, quindi non so, siete voi che avete sentito come è venuta. Io spero sì, è venuta che, bene. Che sia venuta bene, è straordinaria. Se ci ammazza tempo ce la rifai magari. E poi una cosa che hai detto giustamente: hai live nel sangue, il live, cioè dal vivo in continuazione, è l'emblema tuo, e quello è importante. Live è la bellezza. È la bellezza, perché live la gente deve sentire, deve vedere. Un musicista è bravo quando fai live. È quello l'essenza di tutto. Perché, come lo dicevo prima, è la comunicazione diretta con la gente. Lì o sei dentro o sei fuori. Questo mi diverte anche delle audizioni. Io adesso sto naturalmente, come tutti quelli che fanno il mio lavoro, avete sentito adesso Marta che ha svestito per un attimo i panni di Scaramuccio. Sono certo che anche lei avrebbe piacere di rindossarli. Ha svestito i panni di Scaramuccio, ha rivestito quelli di Wendy, ma è il nostro bello, no? Continuare a rapportarsi con dei personaggi diversi, con delle audizioni per musical diversi, andare ai provini, farsi sentire su cose differenti. Io stesso continuo ad andare alle audizioni, farmi sentire da produzioni diverse, perché il gioco dello sei dentro sei fuori mi piace. Cioè devi rendere qualcosa, dare qualcosa. Anche il fatto di ho insistito per farla dal vivo questa qui, No One But You, perché sì, dai, è troppo facile mandarla registrata, no? Vero. E quindi è una forma di live anche questa. Mi sembra di barare, no? Quando butto su un pezzo già registrato, no, uno te lo faccio sentire già registrato. Più che altro per riposarmi la voce dopo aver fatto No One But You, riposarmi la voce, bere un goccio d'acqua. Ti faccio sentire un pezzo mio che mi piace perché ho lavorato un po' sull'arrangiamento, è una cosa strana. Lo sentirete, c'è del rock, del pop, del rap, ci sono tanti cori, si sente puzza di Queen in certi punti, e quindi è una puzza bene quella. Non lo so, me lo dirai tu. Sentiamo adesso. Il pezzo si chiama Piove. Ok. Sono andato via senza salutare, giacca militare, sacca da ginnastica. Ciao, che vuoi che sia? Stare a chiacchierare, stare a dire un bel ricordo, sei stata fantastica. Io che col banale da sempre ci combatto, io opportunista come un gatto, e neanche agile, fragile, fragile. Una goccia per la prima volta qui. della festa. Una goccia a quel profumo che mi dava in testa. Una goccia al cappuccino schifoso nel bar. Una goccia a quel tuo sguardo da animale o da star. Una goccia alle tue scarpe col tacco che ti fanno male. Una alla mia voce ed una al tuo ascoltare. Una al giorno che ti ho detto la parola a provare. Una a tutto il resto, nel bene e nel male. Che ti portavo a casa appeso io quella bottiglia perduta in cantina. Quando mi hai aperto forse no, non ero granché. Io come un vestito nell'armadio sigillato che non hai voluto metterti, adesso sembra un po' passato. Goccia per le litigate il tuo furore, per gli insulti ti detesto dopo fare l'amore. Una goccia in motorino ed una piedi in città. Una goccia per le paranoie di tuo papà. Una goccia alla tua vita che detesto e che adoro. Una goccia ai tuoi silenzi che non sono mai d'oro. Una per le cose vecchie ed una per le nuove. E intanto piove, piove, piove, piove, piove. Averla con me piove, viene proprio di brutto in questo mondo distrutto. Tu vuoi fare a meno di me e vai dove ti porta il sesso. Vai, ma il cuore lascialo stare, potrebbe far male. Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, ancora 10 minuti, Paolo, il tempo vola, eh. Oh mamma mia, eh sì, è stata una bellissima serata, comunque abbiamo fatto tante cose, abbiamo parlato di tante cose. Io so che Maurizio vuole chiedermi un paio di cose. Sì, voglio sentire qualcosa sul tuo spettacolo, come lo hai impostato su la parola al signor G. Sì. Su Giorgio Gaber. Ah, che cos'è la parola al signor G? La parola al signor G è un tributo a Giorgio Gaber, questo è ovvio. Certo. L'ho voluto strutturare in chiave né storica né tematica, perché in genere fanno tributi in chiave storica, iniziato con gli anni 60, poi è passato, raccontano un po' la storia, cantano qualche canzone. Oppure lo fanno in chiave tematica, proponendo uno spettacolo di una particolare epoca. Invece Giorgio all'inizio degli anni 80 e poi un'altra volta all'inizio degli anni 90 aveva fatto delle retrospettive sul suo teatro. Una si chiamava La Dolce Uguaglianza, improvvisamente La Dolce Uguaglianza, credo. E l'altro nel 1990-91, Il Teatro Canzone, che aveva fatto al teatro. Aveva registrato anche anche video al teatro di Pietrasanta, se non mi sbaglio. Secondo me quella era la formula più straordinaria, perché prendeva, pescava spunti da tutta la sua enorme produzione teatrale e musicale e la portava sul palco creando un fil rouge che trattasse un po' tutte le sue tematiche, cioè da quella amorosa a quella sociale a quella politica, alla sua verve più comica, alla sua verve più tragica, regalando un crescendo di emozione al pubblico, ma saltando attraverso le varie tematiche, un viaggio, una specie di biglia impazzita in un flipper che si butta un po' verso la politica, un po' verso la storia, un po' verso il sociale, un po' verso l'amore, un po' verso l'intimistica personale, e nel quale però non si perde mai di vista questo suo sarcasmo, questa sua vena ironica. Io voglio che in questo mio tributo si rida un sacco, e quindi ho fatto una giusta posizione di canzoni e monologhi come Gaber non li aveva mai messi uno in fila all'altro, cioè utilizzando un mio metodo, un mio criterio per giustapporre canzoni e monologhi estrapolati dagli spettacoli più svariati e dalle tematiche più svariate, per crearne io un mio personalissimo filo conduttore, lasciando la parola al signor G e arrogandomi così il diritto, o il tentativo, parliamo in maniera un po' più umile, di scegliere l'ordine delle canzoni e di provare io ad interpretare i pezzi. L'ho fatto per qualche anno da solo, lo facevo con le basi, ora lo ripropongo in una versione completamente nuova, rivisitata anche dal punto di vista della struttura dello spettacolo, e con l'aggiunta, col plusvalore di una band dal vivo di quattro elementi che giustamente migliora e completa. Abbiamo fatto questa puntata pilota il 18 giugno al Teatro Derby di Milano, è piaciuto e ci sono delle persone che stanno provando ad organizzare una specie di tour di questo tributo in giro. Anzi, ringrazio e saluto Carla Toriani, che so che mi sta ascoltando. Ciao Carla, un bacione grande. Lei sta facendo un gran lavoro per questo spettacolo, è venuta a vederlo, le è piaciuto tantissimo, e senza che io le chiedessi per piacere fammi un po' di ufficio stampa su questo spettacolo, lei è stata straordinaria. Io oggi su Facebook l'ho lasciata scrivendo ti adoro, lei mi ha detto no ma dai non esagerare, ho detto guarda, quando una persona è adorabile, perché senza aver bisogno che qualcuno ti chieda le cose le fa spontaneamente, le fa bene, le fa in fretta, è una persona adorabile, soprattutto una persona che sa fare il suo mestiere, no? Dicevamo prima di Claudio Trotta, lo dico di lei, persone che si occupano della parte tra mille virgolette burocratica della musica, ma che hanno una fortissima componente artistica. Un produttore che è anche artista, un ufficio stampa che è anche artista nell'anima, poi dà un plusvalore incredibile al risultato del prodotto. E certo. Infatti escono i We Were Rock You. Certo. Claudio è anche un artista, Claudio è uno che mi posta i pezzi su Facebook e mi dice come mi sto divertendo ad ascoltare questa canzone. E Carla è lo stesso, Carla è una che sì, promuove uno spettacolo, sì, mi fa ufficio stampa di uno spettacolo, ma è una che ama gli spettacoli, che devono convincere per primo lei, ha tanta fantasia, ha tanti progetti artistici lei stessa. E a me piace lavorare con della gente così. Certo, hai ragione, tu hai citato Trotta, e quanti bluesman ha portato in Italia? Caspita, Trotta è un sacco di bluesman. Trotta è la Barley Arts, è veramente uno spiraglio di non perché hanno dato lavoro a me, no? lo direi anche se non avessi fatto We Will Rock You, uno spiraglio, una ventata di vera musica in anni in cui in Italia veramente spesso l'abbiamo persa di vista. Sono d'accordo con te. Sentite, a proposito di musica, io ci tengo, sì, perché l'hai fatta, perché poi siamo andiamo esatto, fuori, esatto, fuori non tempo. Vorrei andare fuori tempo. Ho promesso a delle persone che se si fossero collegate oggi avrebbero ascoltato un inedito. Certo. E quindi lo devo fare. Visto che abbiamo detto musica, è un brano che si intitola Musica e che vorrei farvi sentire perché è completamente nuovo, l'ho appena scritto, nessuno lo conosce ancora, non è in un disco perché non ci andrà mai. Ok, allora ci ascoltiamo Musica. Thank you. quasi il giorno che si fa sera, è quasi il grido in una preghiera, sale la fiamma, scende la cera, occhio alla musica. È quasi il mondo per un bambino, è quasi Tana nascondino, frutta d'estate mista al vino, guarda la musica. È quasi un'anima nel deserto, quasi un tesoro ma mai scoperto, quasi un balcone che resta aperto ed esce la musica. La musica, ah. Ed è così che va, e gira, morde, naviga e si sbriciola, e mille frasi e melodie ti scappa via, e cerchi di fermarla, ma è bello catturarla, per poi addomesticarla fin da piccola, e aprirle poi la gabbia perché è libera. Quasi andarsene da una festa, quasi un motore che batte in testa, quasi godersi quello che resta, mangio la musica. È quasi un brivido che non passa, è quasi darsela in una rissa, quasi un'immagine su cui va in fissa, fatto di musica. È quasi labbra sopra un bicchiere, è quasi labbra ma non per bere, è quasi mordere per conoscere, voglio la musica. La musica, la. Ed è così che va, che salva, uccide, miagola e scodinzola. Ci sta con tutti i testi ma poi svicola. Puoi pure uscirci insieme, volerle molto bene, ma ti hanno detto tutti che è un po' frivola. Ed anche tu lo sai, non sarà l'unica. È quasi un furto legalizzato, è un conto aperto con il passato, per chi c'ha fame, per chi ci ha mangiato, sopra la musica. Quasi un silenzio di luci spente, quasi una radio che trasmette il niente, quasi una musica che si sente, ma non è musica. Quasi la rabbia di chi ha capito e crede ancora nel suo infinito, come la forza di un'arma nuova, largo alla musica. Noi siamo musica, la musica. Ed è così che andrà, in ogni strada e vicolo, e si scaverà lo spazio per riprendersi la sua realtà. Puoi pure fare finta di non averla vista, ma torna a ricordarti che sei musica, di andarti a ripigliare la tua dignità. Nana, musica, musica. Nana, musica, musica. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa era musica, vero? Mi senti? Assolutamente, sì. Sì, sì, ti sento, ti sento. Beh, spero vi sia piaciuta, certo, non ho mai sentita nessuna, sentite voi per primi. Per un inedito assoluto per Blu Radio Sera, un grande onore. A me per sei noi. Piaciuto tu tutta la serata. Grazie, grazie mille davvero. In ogni canzone, se devo essere sincero, non ne sceglierei neanche una perché sono tutte belle, però una la devo scegliere e quindi sì, sceglierai quella che ti sei interpretato tu in una maniera. quella traduzione di No Woman to You. Oh, mamma mia, grazie, grazie. Quella di cui avevo più paura, con queste condizioni qui, con la base, la cuffia. Ho detto, Dio, cosa verrà fuori? Invece, però tu non sei Brit, sei soprattutto Paolo Barilari. Sì, dai. Grazie mille. Grazie. Beh, è bene anche non rimanere legato a un personaggio, certo, perché il bello del nostro mestiere è spaziare, no? Allora, Paolo, è finita la trasmissione. Lasciamo lo spazio ad Alberto Prisco con la sua musica rock e la sua classifica. Noi, ovviamente, come Blu Radio Veneto, siamo stati fieri, orgogliosi di averti qui. Ma grazie. Io sono stato felicissimo, sono stato benissimo. Vi ringrazio e vi tornerò a trovare. Ve lo guarda, prometto. Le porte sono sempre aperte. Quando vorrai. Grazie mille, grazie Ago, grazie Maurizio. Grazie a te, Paolo. Allora, noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento, almeno per quanto mi riguarda, a giovedì prossimo. Sì, esattamente. Non so ancora con chi, mamma, insomma. E Maurizio, tu invece? Avremo due appuntamenti, martedì e mercoledì. Dunque, Tao, mi pare, vero, mercoledì. E Peppi. Beppi and the Prisma, grazie al nostro direttore artistico che mi suggerisce Beppi and the Prisma, martedì con Flavio Bilato dalle 21 alle 22:30 e dalle mercoledì dalle 22 alle 24:00.